Friuli nel mondo. 183esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte d'altri tempi. Vogliamo oggi trasmettervi, cari amici radioascoltatori, alcune brevi, ispirate e commoventi villotte popolari, ricche di poesia pastorale quasi elegiaca. Queste villotte certamente faranno ritemperare il vostro animo nelle limpide acque sorgive di un glorioso passato canoro del vostro Friuli. Il coro Jacopo Tomadini di Udine, diretto da Mario De Marco, vi farà ascoltare L'hai domandate di Sabide, Dutis dutis filin lane, C'è partenze dolorose, Tumburus aschila, Une volte, Puar mai te se tu mi lassis, Encelieur al campe a ierbe, No way ve, Duc micialin di malvoli, Queste viole palidute. Oh. abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.